questo per noi, allora c'è più solo un proprio parlo stop dell'Università di Milano e quello più solo parlo di Milano. Sì, confesso che sono combattuto tra due sentimenti diversi, forse non incompatibili. Da un lato è il piacere grande di essere in questo istituto che conoscevo da tanti anni di fama e attraverso gli scritti, ma che non avevo mai avuto l'occasione, il piacere di visitare, ospite di amici e studiosi cari e illustri, e il piacere di parlare di un libro che ho letto con grande interessamento e con ricevendone notevoli stimolazioni, che non accade né tutti i giorni, né tutti i mesi, né tutti gli anni. E dall'altro l'imbarazzo che forse prevale, sicuramente prevale, l'imbarazzo di trovarmi a fare alcune rapide e sfuggite osservazioni su una problematica di grande spessore e sulla quale ho la precisa sensazione che non solo l'autore naturalmente, ma anche molti dei presenti abbiano elementi di conoscenza e di valutazione molto precisi e molto approfonditi, per cui francamente non so che cosa dire, poche cose di non possa in qualche modo risultarvi degno di ascolto, quindi questo vi chiedo comprensione e indulgenza. L'amico Quaglioni nella sua esposizione ha già toccato non pochi dei nodi che in questa tematica del giuramento si connettono con la storia del diritto. Ma certamente qui siamo di fronte a un libro che si impone fin dal primo sguardo per questa connessione interdisciplinare, che è una esigenza spesso fatta avanti, spesso richiesta, spesso pretesa, ma rarissimamente appagata. E qui il merito è in primo luogo, naturalmente dell'autore, ma dell'autore anche nel senso di avere messo la mano, il dito, o meglio, la mente, su un istituto che come pochi altri, veramente come pochissimi altri forse, ha questa poliedricità che è nella sua stessa natura, perché appunto il trattare il tema del giuramento vuol dire trattare un istituto che è certamente giuridico, e giuridico in, si può dire, tutti i settori dell'ordinamento giuridico, appunto dei contratti al testamento, dalla procedura civile alla procedura penale, dal diritto penale al diritto pubblico, al diritto amministrativo, al diritto costituzionale, naturalmente a livello proprio della concezione e dello Stato, ma che per sua natura non è mai solo un istituto giuridico, anche se il problema dei confini tra la sfera giuridica e le sfere, perché non è una sola, che giuridiche non sono, è un problema costante anche della dottrina giuridica del passato e in parte della storiografia. È un istituto che affonda ovviamente le sue radici nella sfera del soprannaturale, del religioso, del magico anche, del trascendente, che tocca il problema della mentalità, della storia della mentalità, del costume, che quindi per sua natura non può essere trattato se non cercando di fare il giro dell'albero, di vedere il poliedro da tutti i lati. Ora, precisamente questo non era stato fatto prima d'ora, perché Prodi ha fatto una ricognizione della storiografia che è stupefacente. Credo che abbia visto, vuol dire letto, attenzione, letto si capisce benissimo dalle note, che quando ci dono autore lo ha letto, cosa non frequente, non frequente in questa misura, ha visto, credo, certamente più di 1000 opere, forse più di 2000. Un numero che no, basta vedere l'elenco bibliografico per concludere il volume. Ora, in realtà la letteratura storiografica, anche la storiografia giuridica sul giuramento, è immensa. Eppure, da un lato, ci si accorge che ognuno aveva fatto il suo cammino, piccolo o lungo, su un solo settore, non tanto nel senso di limitarsi all'epoca, ma nel senso precisamente di non uscire dal confine della propria disciplina, come del resto è consuetudine triste ma costante o quasi costante della cultura accademica, in cui il massimo peccato qual è? Entrare in una disciplina che non sia quella del proprio gruppo concorsuale, questo è gravissimo, è imperdonabile. E non meraviglia di vedere che la storiografia giuridica si è occupata solo del profilo strettamente giuridico, quella teologica dell'altro e così via. Viceversa, questo istituto non si può capire se non uscendo dai confini tecnici precisi di una disciplina, non si può capire neppure nell'ambito di quella disciplina, perché non si può capire la disciplina giuridica, anche giuridica del giuramento, se non si considerano questi sfondi che giuridici non sono, e viceversa, perché non si può neppure capire l'aspetto teologico se non si considera che il giuramento è anche un istituto del diritto, perché questa connessione in ogni caso c'è. Quindi il primo punto che vorrei sottolineare, certo non sono il primo, non sono l'ultimo, chiedo bene ai presenti che queste constatazioni le avranno già sentite, ma io è la prima volta che parlo del libro e non sono capace di non esprimerle. Ecco, è la prima volta che ciò accade e questo è un pregio enorme del volume. Così come è un pregio del volume il fatto di conoscere a fondo questa enorme storiografia sul tema senza essere prigioniero, perché un altro rischio è proprio questo. Invece qui si vede la libertà con la quale le varie tesi sono state valutate, pesate e in non pochi casi anche respinte, perché con garbo ma con molta chiarezza Prodi in molti casi smonta tesi che viceversa erano pacifiche, dimostra la unilateralità di questo o di quell'altra tesi storiografica anche accreditata. Esempi sia nella parte medievistica sia nella parte moderna e contemporanea del volume. Io mi limiterò adesso a qualche breve cenno relativo soprattutto alla parte antico-medievale, mentre l'amico Cappellini forse insisterà di più sulla parte moderna, medievale moderna, anche per ragioni di non solo di competenza, l'incompetenza nel caso mio non avrebbe particolari confini, ma per ragioni di tempo e di spazio. E vorrei aggiungere poi qualche altrettanto breve considerazione sui suggerimenti che vengono specificamente per la storiografia giuridica da una indagine come questa. Anzitutto la tentazione sarebbe quella di soffermarsi su alcuni almeno dei moltissimi testi che Prodi ha dissepolto e che ha messo in evidenza, perché anche la sola lettura di questi testi suggerirebbe molte idee che il saggio di Prodi, nonostante l'ampiezza, è estremamente conciso e si capisce benissimo che su ciascuno dei grandi autori che egli ha considerato avrebbe potuto scrivere 8 volte di più, non avremmo un volume, forse dovremmo aspettare la fine del millennio, avremmo dovuto aspettare la fine del millennio, ma la concisione appunto è tale, cioè mostra che questi testi sono stati considerati. Alcuni sono anche di una singolare, starei per dire, attualità, nel senso che la problematica, per esempio, dell'aspetto religioso che inerisce al giuramento e della sua possibile secolarizzazione, noi la troviamo, naturalmente la troviamo nell'epoca moderna e contemporanea, dove c'è questa grande svolta che Prodi ha bene ricostruito, ma la troviamo con anticipazioni inaspettate, per me, perfino già in Platone, quel bellissimo passo delle leggi di Platone che Prodi ha citato a pagina 31, dove si dice, lui prendo la libertà di leggere almeno questo passo, oggi però Platone, scrive Platone, riferendo identificando l'opinione del mitico giudice Radamanto, oggi però una parte degli uomini, diciamo, non crede assolutamente agli dèi, un'altra parte crede che essi non si curino più di noi. Perfetto, secolo XX. Essendo dunque mutate le opinioni degli uomini sugli dèi, si devono di conseguenza mutare anche le leggi. E infatti le leggi fatte con l'intelletto devono togliere, nella prassi degli atti d'accusa, i giuramenti di ambedue le parti in causa. E colui che intenta qualcuno una causa dovrà scrivere le sue accuse senza giurare nulla. E ugualmente l'accusato presenterà per iscritto i suoi dinieghi ai magistrati senza giuramento. Qui abbiamo nelle leggi di Platone una presa di posizione che è di una modernità, non ho un giudizio di valore naturalmente, ma solo questa alternativa di quale sia il ruolo del giuramento in una società, chiamiamola pure secolarizzata, e siamo nel quinto secolo anticristo, si pone in termini non molto diversi anche nell'epoca contemporanea. Infatti, ho citato solo questo esempio, ma ci sono molti altri passi che meriterebbero di essere illustrati. Io naturalmente, essendo storico, modesto storico, per principio non ritengo che la storia sia sempre uguale, però non ritengo neppure che la storia sia una linea continua, e mi pare che dalla lettura di questo libro emerga molto chiaramente come ci sia una serie di anticipazioni e di ritorni all'indietro nel corso della storia di un istituto che rende il rapporto tra continuità e discontinuità un rapporto estremamente problematico che va continuamente messo a fuoco. Così come la parte antica delle pagine molto concise dedicate alla concezione ebraica del giuramento come giuramento di Dio, quindi con una concezione che mette addirittura al vertice della gerarchia l'atto di giurare e dall'altra parte il giuramento degli uomini, quindi la formazione del patto originario a cui farà seguito il nuovo patto, sono suggestioni che ritorneranno continuamente nella storia del pensiero non solo occidentale. Così come il passo del Nuovo Testamento, che anzi sono più di uno, che Prodi commenta e discute, che vieta di giurare, è messo a confronto con il riconoscimento da parte di Paolo della liceità del giuramento, e qui abbiamo di nuovo un aspetto, secondo me, metodologicamente importante della ricerca, e non solo per il tema che ci sta a cuore, cioè la fecondità che nella storia delle idee del diritto, in modo particolare non solo del diritto, anche della teologia, hanno avuto le contraddizioni vere o presunte che si trovano nei sacri testi. E se la religione cristiana è anche la religione di un libro, una gran parte del pensiero anche giuridico, canonistico, teologico, della tradizione europea nasce dallo sforzo appassionato, quasi drammatico, di superare delle contraddizioni tra testi o delle supposte contraddizioni, superarle, perché siccome tutte hanno il crisma della rivelazione, la contraddizione non può esistere. E qui tra il divieto del giuramento e il riconoscimento del giuramento abbiamo in luce una contraddizione sulla quale si eserciterà per prima l'attenzione dei padri della Chiesa, che Prodi ricostruisce, il pensiero ricostruisce, da Giovanni Crisostomo a Sant'Ambrogio, ai due grandi padri della Chiesa latina che ritroviamo sempre o quasi sempre alla base dello svolgimento del diritto canonico, a Agostino, che con realismo, testo anche Ambrogio, che sappiamo che era un funzionario civile prima di essere diventare vescovo, furor di popolo letteralmente. Ecco, qui la cultura anche giuridica di questi uomini si rivela nel riconoscimento della ammissibilità, della liceità del giuramento come strumento di accertamento della verità, e nello stesso tempo dalla condanna dello spergiuro, e quindi il divieto di cui si parla in Matteo e Giovanni è ritenuto a riferirsi essenzialmente al divieto di spergiurare, di giurare il falso o di promettere il falso nelle due accezioni fondamentali del giuramento, e non invece nel senso del divieto di esprimere questo strumento. Così come alcune pagine sono dedicate al giuramento del diritto romano, e qui la letteratura era naturalmente molto ampia, ma in questo sfondo, che non è solo giuridico, l'istituto acquista la sua pregnanza, a cominciare, o meglio a terminare, per quel che riguarda il diritto romano, da quella fondamentale proposizione della novella 8 di Giustiniano, che è all'origine di tutti i giuramenti dei funzionari fino all'anno di grazia 1993, che appunto si deve all'imperatore, all'ultimo imperatore, alla metà circa del secolo VI. Non meno significativa è la ricostruzione relativa all'alto medioevo, con la valorizzazione di quel canone del principio di Toledo, e qui è giusto aver messo in rilievo il peso della Spagna visigotica, perché il regno visigotico, perché non poche istituzioni politico-giuridiche che avranno una lunga vita anche al di là del medioevo e del basso medioevo hanno la loro radice in quella singolarissima costruzione costituzionale che è stato il regno di Tolosa e poi di Toledo, soprattutto l'ultima parte del regno visigotico, quel giuramento che viene imposto col concilio di Toledo dell'anno 633 di fedeltà al re, e questo per opera della stessa Chiesa, con il giuramento di fedeltà di Carlo Magno che lega fedeltà a obbedienza, perché non è un giuramento di carattere feudale, che lega i sudditi al sovrano e imperatore, con la valorizzazione di quei primi spunti di dottrina alto medievale che non sono da trascurare affatto, che saranno la ricchezza e la, e la, e la, precisione e approfondimento concettuale che nascerà solo più tardi, che si richiamano per esempio le sindrome Sibilla, di nuovo il reddito sindotto da un lato, a Incomar Graves dall'altro, con quella bellissima definizione che Rodi ricorda di urare quasi iure orare, che in due parole esprime, starebbe a dire, l'essenza giuridica del giuramento, che è istituto giuridico ed è istituto che affonda le sue radici in una realtà etico-religioso, iure orare. Giustamente Prodi sottolinea l'importanza fondamentale della svolta del secolo XII, del periodo, qualche decennio che si suole chiamare alla riforma gregoriana, e che in gran parte dei campi della storia intellettuale, civile, politica, religiosa d'Europa ha costituito veramente il momento di maggior discontinuità, il momento dal quale tutto è partito per la costruzione anche della concezione dello Stato moderno. E vorrei sottolineare l'importanza della qualificazione che Prodi fa del ruolo della Chiesa gregoriana, che ha rotto la sacralità intrinseca al giuramento rivendicandone il controllo. Questo è importantissimo. Ha rotto la sacralità intrinseca al giuramento rivendicandone il controllo, perché, come certamente ricordate, tra l'altro il Dictatus Pape di Gregorio VII ha attribuito al Papa la facoltà di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà all'imperatore, e quindi ha attribuito alla Chiesa, al suo vertice, questo potere di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà. Quindi, se il giuramento è il chiamare Dio a testimone, quindi impegnare la propria coscienza, la propria anima, la propria salvezza eterna, perché questo è in gioco col giuramento, proprio salvezza eterna rispetto a un singolo fatto, a una singola promessa, qui si attribuisce alla Chiesa, cioè al Papa, il potere di intervenire su questo elemento e quindi sciogliere dal giuramento, sciogliere da questa promessa, coerente con la concezione della Chiesa, perché se i ministri hanno il potere di sciogliere e di legare, hanno il diritto delle chiavi, hanno il potere di assolvere dai peccati, e gli sono stati dati per l'istituzione divina, si può ammettere che abbiano anche questo potere. Però questo intervento della Chiesa gregoriana viene ad attribuire alla Chiesa stessa un ruolo preciso su questo terreno, e quindi ha, come dice bene Prodi, a interrompere quell'elemento di rapporto diretto ed esclusivo, che dire intangibile, che si crea tra l'individuo e la divinità con il giuramento, e che fino a quel momento non era stato rotto. Questo aspetto è importante perché naturalmente altro è il concepire il giuramento come un atto che impegna l'uomo di fronte a Dio e che quindi crea un legame, per così dire, esclusivo, univoco e indipendente da ogni intervento della comunità, dell'autorità. Altro è viceversa ritenere che vi sia un ruolo non solo nella disciplina giuridica del giuramento attraverso la sua configurazione, le forme in cui deve essere reso, gli effetti che può produrre nel processo, ma anche nella sua stessa tenuta sotto il profilo etico, religioso. E questo secondo aspetto che viene, nel quale entra in gioco la Chiesa, è un aspetto che si lega in modo particolare a questo momento della storia europea. la ricognizione dei settori dell'ordinamento giuridico e degli istituti che hanno avuto come protagonista, come coprotagonista il giuramento, sarebbe quasi senza fine. E Prodi ne esamina una grande tipologia e probabilmente altri esempi ancora si potrebbero aggiungere, perché il giuramento, per così dire, noi lo troviamo ovunque, lo troviamo ovunque nell'epoca che stiamo considerando, nel passaggio tra l'alto medioevo e lo basso medioevo, per poi ritrovarlo larghissimamente anche nell'età moderna. E basti ricordare, cito solo pochissimi esempi, il ruolo delle paci giurate, delle tregue di Dio, tutti tra il XI, fino al X, XI secolo, nella Francia, nella Germania, in altre parti d'Europa, tutte sigillate col sigillo del giuramento. Basti ricordare, qui mi limito a citare questo esempio, la struttura macroscopica, come una parte importante della storiografia, soprattutto tedesca, abbia ritenuto di trovare nel giuramento, nella comunità giurata, Eidgenossenschaft, il fondamento stesso della civiltà comunale, cioè dell'istituzione comune, quindi il comune, quindi la forma medievale della democrazia che in un certo senso l'Europa ha riscoperto indipendentemente dai suoi germi della Grecia antica, nasce attraverso questa forma che è la coniuratio, coniuratio, di cui la congiura ovviamente è solo una derivazione che meriterebbe a sua volta commento. E quindi come in questo elemento del giuramento, che poi noi ritroviamo nelle corporazioni, e ci sia una delle fonti Prodi della moderna statualità, a cui fa riscontro, e Prodi lo sottolinea con estrema chiarezza, l'altro elemento del giuramento come giuramento di soggezione, cioè come giuramento che crea un vincolo in una sola direzione di chi giura nei confronti di un superiore e non invece in un rapporto di tipo contrattuale. Quella duplicità del giuramento che Althusio, ricordato naturalmente da Prodi, aveva sottolineato, che Gierke nella sua grande opera aveva richiamato e di cui peraltro Prodi sottolinea l'elemento comune che era stato trascurato dagli autori della storiografia, cioè il fatto che entrambi sono fondati su un modello, su un istituto giuridico che è lo stesso, cioè il giuramento, la promessa giurata, con le sue valenze che vanno al di là del giuridico, con le sue valenze metagiuridiche. E così sottolinea il ruolo che ha avuto Federico II nell'imporre ai suoi ufficiali il giuramento nel libro delle Libera Augustalis. Anche qui Federico II anticipa moduli dello stato burocratico e moderno nella sua opera, come sottolinea il ruolo che Ernst Kantorowicz aveva messo in luce suo capolavoro sui due corpi del re, che ha avuto il giuramento nella costruzione delle monarchie medievali e attraverso il giuramento della corona. Gli esempi che Prodi porta sono innumerevoli, compreso il ruolo che il giuramento ha avuto nella vita dell'Università delle Origini. Per quel che riguarda la storia del diritto, dunque, le suggestioni che vengono dalla lettura di queste pagine, già solo per l'età medievale, sono innumerevoli. Chi vi parla si è occupato abbastanza a lungo di storia del processo, sia nel tardo antico, sia nell'alto medioevo, sia nell'età del diritto comune. E confesso che mi ero imbattuto più occasioni in questo istituto del giuramento, senza peraltro mai averne fatto oggetto di un'indagine specifica e tantomeno senza averne colto tutte le sfaccettature e le radici che appunto qui emergono alla luce con chiarezza. Voglio però sottolineare che mi ero reso conto, e meglio me ne sono reso conto ora leggendo le pagine di Prodi, di come nel processo il giuramento abbia svolto un ruolo che può sembrare contraddittorio. Oggi noi siamo portati a parlare e a concepire il processo come una vicenda nella quale si accerta la verità, quella che le parti consentono di accertare, quantomeno dall'ipotesi in un certo senso più evidente del processo penale, in cui si tratta di accertare se colui che è imputato è l'omicida o meno, o chi ha commesso il furto, all'accertamento dei fatti, prima che del diritto nel processo civile. Ebbene, questo sistema, per così dire moderno, tra virgolette, perché anche qui ci sono ritorni al passato, sarebbe interessante richiamare, questo andamento, il processo moderno è essenzialmente basato su due capitali strumenti di prova che sono la prova scritta e la prova testimoniale. L'accertamento della verità fondamentalmente si compie o attraverso la testimonianza o attraverso il dubbio. Oggi ovviamente il sistema ordalico, cioè il chiamare Dio a giudicare per stabilire chi è innocente, chi è colpevole, chi ha ragione e chi ha torto, è emarginato. Oggi chiamiamo questi mezzi di prova, che nel passato hanno avuto una fortuna immensa, soprattutto in certe epoche, mezzi di prova irrazionali. Io vorrei sottolineare che se certamente oggi chi volesse reintrodurre l'ordalia e la prova dell'acqua calda, pur in un paese dalla legislazione stravagante come il nostro, rischierebbe di essere messo in una di quelle cliniche che la legge Basaglia ha forse apertamente abolito. Non così avveniva nel passato, perché in una società nella quale la fiducia, la fede, la certezza dell'intervento del soprannaturale, non solo genericamente delle vicende umane, ma delle vicende specifiche, per esempio di un singolo processo, era assoluta, o comunque era forte, questi strumenti di prova, che erano le ordalie, avevano una funzione di accertamento della verità. E lo stesso avveniva per il giuramento. Mi spiego. Non è tanto il fatto che ci fosse chi camminava sui carboni ardenti e non si scottava, e ciò è accaduto, a comprovare quanto sto dicendo, ma proprio la storia del giuramento. Se si percorrono, questa è la piccola esperienza che posso portare di ricerca su questo istituto, se si vanno a vedere le carte alto medievali sul processo, ci si imbatte. Una ricerca non è mai stata fatta, che io sappia, ma metterle di farle in modo sistematico, io ne ho trovate alcune per caso, ci si imbatte in numerosi processi nei quali o la parte o il giudice deferiscono il giuramento all'altra parte. Cioè, come sapete, stabiliscono che una delle due parti deve giurare, e se giura si purga, per così dire, cioè vince la causa, cioè viene assolta dall'accusa, cioè alla meglio nel processo civile o penale che è in corso. Ebbene, numerosi sono i casi nei quali la parte alla quale viene deferito il giuramento ausa non fuit iurare. Questa è la formula che si ritrova in più occasioni. Ausus non fuit iurare. Perché non osa giurare? Eppure sa che basterebbe dire giuro e vince la causa, tiene la terra, viene assolto. Non giura perché sa di essere colpevole, perché non è sicuro della propria innocenza. Cioè, in un mondo nel quale si crede veramente che sia in gioco la salvezza eterna nel caso dello spergiuro, lo spergiuro, il giuramento è uno strumento di accertamento della verità. E quindi questo non va dimenticato, perché guai a giudicare il passato con il metro del presente o comunque di un futuro rispetto al passato stesso. Naturalmente questo non significa, questo è un altro punto importante, che non ci fossero spergiuri allora, perché se noi facessimo una ricerca giuridica sulla storia dello spergiuro, sarebbe interessantissima, e Prodi mi dà diversi elementi, troveremmo che lo spergiuro era diffusissimo, anche in quell'epoca, anche nell'alto medioevo, anche nell'età comunale, si spergiurava a tutti i piani, e Prodi ricorda alcune fonti, c'era chi spergiurava e c'era chi per non spergiurare confessava di essere colpevole solo che gli fosse chiesto il giuramento. E questo non solo nell'alto medioevo, io ho visto alcuni processi di Milano dell'epoca comunale, cioè intorno alla metà del XII secolo, e anche lì ho trovato esempi, potrei documentare, precisi di casi nei quali la parte si rifiuta di giurare al console del comune e perde la causa e vince l'altra parte. Non solo, ma il giuramento era un elemento di riscontro fondamentale anche nel processo in cui già esistevano le prove cosiddette razionali, cioè sempre a Milano, un'indagine che ho compiuto qualche anno fa, ho potuto riscontrare che nei primi 30-40 anni da quando il comune si è costituito e abbiamo le carte processuali di quest'epoca, circa una quarantina di sentenze dei consoli, sempre non c'è un solo caso nel quale non si imponga il giuramento anche alla parte, cioè esiste una controversia, ci sono dei testimoni, ci sono dei documenti, il giudice quindi è in grado di decidere chi ha ragione e chi ha torto, lo decide in base alle prove cosiddette razionali, ma non conclude la causa senza aver prima, per sola più per così dire, imposto il giuramento alla parte che sta per vincere la causa, cioè non si fida il giudice delle prove cosiddette razionali, vuole anche che chi ha dalla sua il diritto e il fatto giuri per la ragione, che è una singolare applicazione dell'istituto e che peraltro era indispensabile almeno fino agli anni 60 del 1900. Solo dagli anni 60 si comincia in qualche caso a trovare qualche processo in cui la parte non giura. Così come c'è tutta la disciplina del giuramento di calunnia che risale all'età giustinianea, ma che vede esenti alcuni ordini, come per esempio i monaci, e nel periodo della pace di Costanza i monaci di Chiaravalle chiedono più volte di essere esentati dal giuramento, gli esempi sarebbero innumerevoli. Cosa voglio dire, e mi scuso se ora concludo rapidamente, se forse vi ho intrattenuto troppo, voglio dire che da un'indagine come questa vengono spunti per molte altre indagini anche nei territori specifici di ciascuna disciplina, perché certo non si potrà pretendere da uno storico del diritto di normale attrezzatura intellettuale che spazi dalla teologia al diritto canonico come ha fatto Prodi nel suo libro, però si può, dalla lettura del suo libro ne vengono spunti per ricerche disciplinari, cioè nel solco di una singola disciplina, e in particolare mi riferisco alla mia disciplina, la storia del diritto, che in gran parte sono ancora da fare. Per esempio abbiamo il ruolo del giuramento delle pace private dei comuni italiani, mi riferisco al bellissimo libro di Masi, Collezio Cartato, Luca Pace Spredato, in cui si vedono queste famiglie di San Gimignano, siamo intorno al 1230, che giurano una alla volta di essere amici di questo, di quello, cioè c'è una rete di giuramenti al persona in cui si vede che ciascuna famiglia è la nemica di un'altra e giura che non lo sarà più. Una rete di alleanze intracittadine cementata con lo strumento del giuramento, e anche questa è una dimensione che potrebbe essere approfondita. Così come c'è tutto lo studio della dottrina, prima lo ricordava Guaglioni, i la trattazione dottrinale sia dei civilisti sia dei canonisti, naturalmente da Graziano ai decretisti in poi, è semplicemente sterminata. Si potrebbero scrivere non uno ma 10 libri sulla storia della dottrina del giuramento in cui questi elementi potrebbero emergere. Detto questo, ne nasce ancora forse un'ultima domanda o questione che per me è forse quella basilare, cioè l'elemento del che Prodi chiama del dualismo tipico della civiltà cristiana, in particolare del cristianesimo occidentale, che anche qui, come in altri campi della storia e non solo della storia del diritto, a me pare capitale anche perché caratterizza la civiltà europea, chiamiamola così, meglio la civiltà cristiana, rispetto ad altre grandi civiltà del passato, come la civiltà ebraica da un lato, la civiltà islamica dall'altro, la civiltà cinese dall'altro. Adesso non voglio che vi scandalizziate di questi, ma non si può evitare di rilevare che qui noi abbiamo un elemento che è il giuramento, che inerisce, come abbiamo detto, pesca sul terreno del religioso e sul terreno civile, giuridico, istituzionale. E questo, l'istituto del giuramento non esiste certo solo nella civiltà europea, esiste certamente in molte altre civiltà, se non in tutte, però quello che è caratteristico, mi pare, se non vedo male, ma su questo forse sarebbe interessante qualche spunto da parte di Prodi, prima di tutto potrebbe certamente andare più a fondo di come posso andare io. Mi pare che quello che è caratteristico della civiltà appunto cristiana è il momento della distinzione tra queste due sfere. Distinzione non vuol dire mancanza di connessioni, anzi, le connessioni sono infinite, le confusioni tra la sfera religiosa e la sfera civile, tra la sfera ecclesiastica, che non è la stessa cosa, e la sfera temporale, sono una costante della storia europea. Lo sforzo di distinguere, di separare e di connettere queste due sfere è si ritrova almeno dall'epoca della scolastica in poi come una costante, ma l'elemento della separazione, della distinzione che nasce poi da quel passo capitale che è uno dei pilastri della civiltà cristiana, che è Dante a Cesare, è questo passo da solo ha posto le radici di un carattere che non si ritrova né nell'ebraismo antico, dove questa distinzione non c'è tra sfera civile e sfera ecclesiastica religiosa, né nell'islamismo, dove se non sbaglio questa distinzione non c'è, né nella civiltà cinese, dove questa distinzione non c'è, perché l'imperatore è il messo del cielo, ma poi sulla terra c'è solo l'imperatore, non ci sono i sacerdoti, non c'è Dio che si invoca direttamente, non c'è un'organizzazione ecclesiastica distinta da quella civile. E quindi, peraltro, verso la civiltà cinese non l'ha conosciuta come non l'ha conosciuta la civiltà islamica, l'ha conosciuta la civiltà in particolare occidentale. E allora uno degli elementi fecondi di una ricerca sul giuramento è proprio cercare di capire come queste due sfere stanno accanto senza confondersi, o magari in certi momenti confondendosi. E per esempio questo lo vediamo sul terreno giuridico attraverso il problema della giurisdizione. Il giuramento è, siccome il giuramento impegna la salvezza dell'anima, per definizione fa parte della sfera spirituale, quindi entra nell'ambito del diritto canonico, della giurisdizione della Chiesa. Però i civilisti capiscono che se tutte le volte che è in gioco un giuramento si dovesse andare davanti al vescovo per farsi giudicare, non esisterebbero più i giudici civili, il vescovo diventerebbe praticamente l'unico giudice. Ecco allora lo sforzo di sottrarre la giurisdizione relativa ai contratti giurati alla competenza delle corti ecclesiastiche, senza che peraltro si neghi il principio che il giuramento impegna la salvezza dell'anima. E uno degli aspetti dell'affermazione dello Stato rispetto alla Chiesa e dell'autonomia del temporale rispetto allo spirituale è anche qui. Questo è anche uno dei fili rossi che permettono di capire come matura questa autonomia. Così come, ma qui io mi fermo anche perché andiamo soprattutto nell'epoca moderna, così come il problema capitale della secolarizzazione tocca di nuovo questo istituto, e qui uno degli aspetti più interessanti dell'opera di Prodi è proprio l'aver mostrato come l'uso abnorme, e starei per dire mostruoso, che del giuramento si è fatto nell'epoca moderna e contemporanea, impegnando non più l'anima forse, ma sicuramente il corpo, e il corpo di milioni, anzi decine di milioni di uomini, con questo strumento che può diventare diabolico, che è il giuramento, sia frutto di una secolarizzazione di elementi che nascono dalla civiltà religiosa, che a un certo momento si staccano dalla loro radice e possono portare anche frutti avvelenati come questo. E qui di nuovo abbiamo il problema del rapporto tra le due sfere. E un rapporto che giustamente, secondo me, Prodi considera non chiuso ancora nell'epoca contemporanea, quindi aperto anche verso il futuro, quando dice che questo elemento della terzietà, cioè del mettere un impegno attraverso la forma giuramento nelle mani di qualcuno che non è né lo Stato né un proprio simile, probabilmente può giocare un ruolo anche nella civiltà di domani, anche in una forma secolarizzata come la promessa, che non impegnerà forse più il rapporto con Dio, ma impegna comunque il rapporto con la propria coscienza. Per cui noi ritroviamo una radice metagiuridica del giuramento anche in una società che in ipotesi o in individui o in un momento storico o in una concezione che non sia trascendente. E qui si aprirebbe un nuovo capitolo. Mi scuso carattere confuso di queste poche osservazioni, ma sono solo la testimonianza del grande interesse che io ho per queste pagine.